Quando mi sono svegliato, non respiravo più. Che non è una bella sensazione non respirare. Cioè, sono in pochi quelli che la provano davvero e che poi la riescono a raccontare. Non parlo di trattenere il fiato, io parlo proprio di rimanere senza aria, non averne più a disposizione. Ecco, di solito succede sott'acqua, oppure sui treni per i pendolari delle ferrovie dello Stato. Nel mio caso invece ero nel mio letto, ma dalle mie narici non passava un filo d'aria. Mi sono svegliato boccheggiando con le labbra spalancate, in un atto estremo di autosopravvivenza. La gola mi faceva male solo a muovere la lingua. Deglutire era un'impresa quasi eroica per il dolore che causava. Mi sono alzato per bere un goccio d'acqua, ma mi sembrava di pesare 500 kg e sono ricaduto sul letto. Sentivo scariche di brividi lungo la schiena. Il mio fato era rovente. Mi sono avvolto nella coperta come in un bozzolo. E in quel momento lì mi sono ricordato qual era invece il lato negativo dell'influenza. Che quando ti ci trovi dentro e sei nella fase acuta, la sensazione è che non sei mai stato così male e che questa volta qua non passerà. Cioè, ti sembra impossibile potersi riprendere fisicamente se non hai la forza di alzarti, se la tua fronte è scotta come la marmitta di una vespa, l'unica cosa che vorresti fare è perdere i sensi lì dove sei. Ecco, questo aspetto qua, quello della guarigione impossibile, è quello peggiore dell'influenza. E pensare alle grandi guarigioni esemplari in quel momento non ti serve. Cioè, non ti aiuta a pensare alla lotta di Lance Armstrong contro il cancro o a Alex Zanardi che guida e corre senza le gambe, perché tu in quel momento lì stai molto peggio. Hai quasi 38 di febbre, hai le placche in gola e senti una sirena nelle orecchie. Solo che la sirena non si capisce che problema sia, perché non è che hai male alle orecchie. Allora provi a concentrarti e realizzi che quella non è una sirena, è solo il cellulare che sta suonando. Pronto? Sì, Matteo, ciao, sono io. Io chi, scusa? La Simo. Ehi, ciao Simo, come stai? Bene, tu? Io no, per niente, guarda, sto per niente bene. Oh, signor, cosa ti è successo? Ma non lo so, mi sa che ho la febbre, un po' di influenza, non lo so. Bene, allora, non ti muovere, io arrivo subito. No, come bene, scusa, no, Simone, aspetta, lascia stare, guarda, non ti disturbare, sto già a posto così. Ma guarda, io non mi disturbo, vengo volentieri. No, Simone, guarda, aspetta, non hai capito, sono io che non ti voglio, se non no, ti disturbo. Matteo... Sei sempre il solito, dai, 20 minuti e sono lì. No, Simona, guarda, per piacere, davvero, lascia stare. Matteo, ascoltami, passo in farmacia, tu non fare niente, arrivo tra 20 minuti. Simona, scusami, guarda, forse te lo devo spiegare meglio. Stai diventando un po' invadente, sinceramente. Simona?